Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Dignità gay. Ciao Project, mi permetto di chiamarti così e di darti del tu come fanno tutti a quanto vedo. Complimenti per il blog e per il forum. Ultimamente ci ho passato tantissimo tempo perché volevo capire la vita degli altri ragazzi gay. Un po' un'idea me la sono fatta, però adesso la cosa che mi complica di più la vita non è l'essere gay, che sono così in pratica, lo so da quando ero piccolo. Il mio vero problema, forse non è nemmeno un problema, è che di recente ho dato una svolta radicale alla mia vita, perché a casa mia, o meglio a casa dei miei, mi sentivo spiato. Io ho fatto da qualche mese 18 anni e pensavo che avrei avuto diritto a un po' di privacy, e invece non ne ho avuta nemmeno un po'. I miei genitori sono molto giovani, 41 anni mio padre e 39 mia madre, quindi in teoria un po' di dialogo ci potrebbe pure essere. Non sono bigotti e in tante cose, come uscire la sera o stare a dormire dagli amici, non mi hanno mai creato problemi. E poi sono di sinistra, parlano sempre della libertà e di questo e di quello, ma della libertà dei gay no. Una volta, un paio di anni fa, stavo con loro e con un gruppo di amici di papà ed è venuto fuori il discorso sui gay. Mentre gli altri sembravano veramente gente che pensa che tra un gay e un etero non c'è differenza, per mio padre non era così. Lui ci metteva i se e i ma e la cosa mi dava enormemente fastidio. Ma questo era 2 anni fa e allora che io fossi gay lo sapevo soltanto io. E loro, di sicuro, non sospettavano minimamente. Nel mese di febbraio di quest'anno sono cominciati a uscire i soliti discorsi. I tuoi amici hanno tutti la ragazza, ma così solo accennato, senza nemmeno aggiungere altro, tanto il seguito si capiva benissimo. Io sono stato preso alla sprovvista e ho reagito in modo un po' imbarazzato. Da questo credo che siano cominciati i sospetti e la caccia alle streghe. Apparentemente era tutto come prima, ma qualche cosa di strano nei discorsi di mio padre, dalla voce, io la notavo e proprio non mi piaceva. Avete qualche cosa da dire? Beh, allora forza. Dico, fatelo apertamente, ma le ipocrisie io non le sopporto proprio. Project, tu devi capire che io a casa mia non ho mai avuto nulla di gay, se non nel computer. Fino a pochissimo tempo fa non avevo nemmeno un computer mio. E accedevo a internet da quello di papà, e quando loro hanno cominciato a sospettare, io usavo ancora il computer di papà, che risultando amministratore poteva accedere a tutti i file, anche ai miei, pure se erano protetti da password. Dopo il discorso sui miei amici che hanno la ragazza, cosa che mi aveva messo parecchio in allarme, sono andato subito nel computer e ho eliminato tutti i file, anche i più vagamente gay. Io li tenevo tutti in una cartella speciale dove c'era scritto esercizi di matematica, però evidentemente qualche volta nella fretta di chiudere tutto, perché quando i miei arrivano a casa all'improvviso non mi dovevano certo trovare sui siti gay, devo avere sbagliato e devo avere lasciato un file vagamente gay, poi ti dico di che cosa si tratta perché ti riguarda, fuori dalla cartella. Quindi quando ho cambiato i contenuti della cartella e ci ho messo effettivamente degli esercizi di matematica che tenevo altrove, ho dimenticato di cancellare il file vagamente gay che tenevo fuori. Che cosa intendo per vagamente gay? Intendo niente foto, niente video. E qui vengo al tuo forum. In pratica avevo fatto una copia del post come ho capito di essere gay. Perché mi piaceva molto. Io, dopo aver cancellato il contenuto nella cartella esercizi di matematica, mi sentivo tranquillo. E siccome secondo me nel computer non c'era più un materiale gay, ho cominciato ad adoperarlo anche quando c'erano i miei, cosa che prima non facevo mai. Un po' di tempo dopo il discorso degli amici che hanno la ragazza, apro il computer. Io avevo cancellato ovviamente tutta la cronologia era vuota. Secondo me segno evidente che nessuno ci aveva messo le mani, ma poi sui file recenti mi vedo al primo posto come ho capito di essere gay. Mi è cascato letteralmente il mondo addosso, ho provato una sensazione orribile, proprio quella di essere sputtanato di brutto, come se fossi un ladro beccato sul fatto, di essere spiato da mio padre che era arrivato a capire, ti giuro Project, una sensazione orribile. Se te lo voglio dire, te lo voglio dire io, ma non devi essere tu a spiarmi. Una cosa del genere è proprio vergognosa. Vabbè, ci sono stato malissimo. Io mi aspettavo che da lì a qualche ora sarebbe arrivata la resa dei conti, ormai ero deciso e glielo avrei detto comunque. Tanto sputtanato ero e non avevo più nulla da perdere. Era il 21 di marzo, il primo giorno della primavera e avevo appena compiuto 18 anni. Quel giorno non lo scorderò mai perché ha segnato il mio divorzio totale dalla mia famiglia. Contrariamente alle previsioni, mio padre, quando è tornato a casa, non ha detto niente e io l'ho odiato per questo e ha fatto come se non fosse successo niente. Praticamente dal 21 di marzo, tra me e i miei, non c'è più stato nessun rapporto serio, solo formalità e ipocrisie. Ah, mi ricordo adesso una cosa importante. Quando avevo fatto 18 anni, i primi di marzo, e loro già sospettavano qualche cosa, mi avevano proposto di fare una festa a casa. Io li avevo mandati a quel paese. Project, avevo scritto un'altra espressione, ma poi l'ho cancellata proprio per rispetto a te. Li avevo mandati a quel paese, diciamo, con educazione, cioè con ipocrisia, perché la festa a casa serviva solo per spiarmi in situazione e solo per questo. I miei sono di buona condizione economica e forse inconsciamente, ma forse no, hanno pensato di essere anche molto importanti per me, almeno da quel punto di vista. Beh, io dei loro quattrini e delle loro ipocrisie non ne volevo sapere più nulla. Io sono un ragazzo gay, sono solo e forse rimarrò sempre solo per tutta la vita. Il mio problema non è trovarmi un ragazzo, campo bene pure da solo. Il mio problema è essere libero, non dipendere da nessuno e meno che mai da mio padre e da mia madre. Ho cominciato a fare qualche lavoretto il pomeriggio. Lavoravo dalle 15 alle 20 in una pizzeria a preparare tutto il materiale per i cuochi. Per la sera mi davano 500 euro al mese, ma erano soldi miei. I miei non sapevano dove andavo il pomeriggio, ma io andavo a lavorare e a fare un lavoro che a loro sarebbe sembrato assolutamente inaccettabile, ma per me era la liberazione. Tornavo a casa morto di stanchezza perché mi facevano lavorare duro e mi mettevo a studiare. A scuola ho perso colpi. Prima ero bravo, poi mi sono accontentato del passabile, però mi sentivo libero. Non ho più chiesto soldi ai miei, né per i vestiti, né per le scarpe, pagavo tutto da me. Compravo solo cose di pochissimo prezzo, ma erano cose mie. Sono arrivato anche a comprarmi un computer portatile, perché quello di mio padre non lo avevo usato più e finalmente ci ho schiaffato dentro tutto quello che volevo. Ci ho messo 1000 password e l'ho lasciato sempre in giro. I miei non capivano chi mi avesse dato i soldi per comprare il computer e si stavano preoccupando. Loro pensavano che mi prostituissi o che avessi trovato un amante molto più grande di me che mi faceva regali costosi, ma io li ho lasciati friggere e ho risposto solo: sono affari miei. Mio padre ha avuto un'alzata d'ingegno e ha cominciato a fare la voce grossa: finché stai qui, noi dobbiamo sapere che vita fai. Io ho ingoiato perché non potevo ribattere, ma mi sono dato da fare. Ho insistito alla pizzeria e mi hanno preso a fare il cameriere. Lavoravo tutte le sere dalle 19 alle 24 e la domenica tutta la giornata dalle 10 alle 24. Mi danno 900 euro, ma sono cose regolari. È un lavoro da massacro e certe volte la sera non mi reggo in piedi, ma riesco a sopravvivere da solo. Tramite la pizzeria mi hanno fatto conoscere una signora che affittava un monolocale in periferia a 400 euro al mese, un posto un po' squallido, all'ultimo piano e senza ascensore, con davanti un pezzo di terra che sembra una discarica, ma era mio. Quando ho concluso il contratto di casa, sono andato a casa dei miei, ho fatto le valigie e me ne sono andato senza dire niente a nessuno. Beh, non ci crederai, non mi hanno nemmeno chiamato al cellulare. Poi ho saputo che del fatto che lavoravo alla pizzeria l'avevano saputo da amici loro che io non conoscevo. A loro è bastato questo per tranquillizzarsi. Adesso, da quando è finita la scuola, faccio anche altri lavoretti e faccio anche 2 turni alla pizzeria e devo mettere da parte un po' di soldi perché l'anno 21 ho la maturità e dovrò studiare di più e quindi potrò lavorare di meno. Adesso il mio appartamentino è caruccio. Me lo sono tutto ripulito che pare un gioiellino. C'è anche un bel terrazzo più grande della casa e ci ho messo qualche piantina. Probabilmente Project, ti dico una cosa assurda. Mi piacerebbe tanto che tu potessi venire a vedere casa mia. E sono felice quando dico casa mia. Non so se troverò mai un ragazzo. Penso che succederà, e forse è già successo, ma comunque ci vado piano. Ma lo voglio serio. Lo voglio con le palle. A me la gente che si lamenta e basta non piace proprio. Adesso un ragazzo che mi piace c'è. È uno che lavora alla pizzeria, è arrivato da poco, è un po' più grande di me, ha 21 anni, si chiama Luca. Io sono andato a lavorare per rabbia, lui invece lavora per necessità perché la sua famiglia non sta tanto bene a quattrini. Quando siamo sul lavoro, io e Luca, non possiamo parlare, però abita non molto lontano da casa mia e quando finiamo il turno prendiamo il notturno insieme e lì si chiacchiera un po'. È molto timido per avere 21 anni, ma è un bravissimo ragazzo. Non so se è gay o non è gay, ti giuro, per me l'importante non è portarmelo a letto, ma che mi voglia bene, e lui me ne vuole, e io lo sento. Una mattina è venuto a casa mia, mi ha fatto tantissimi complimenti e io sono stato felice. E poi ha un suo modo di sorridere, una gentilezza d'anima, una dolcezza di fondo che per me sono proprio il massimo. Per me innamorarmi di Luca è proprio la cosa più naturale del mondo. Io ho un sogno, che in quella casetta ci si possa vivere anche in due. Lo so che lui deve lavorare per tirare avanti la sua famiglia. Una volta sono stato anche a casa sua e mi hanno accolto benissimo e sono felice per lui perché ha avuto la fortuna di avere una famiglia come si deve. Lo sai, Project, io al sesso non ci penso proprio. A parte il fatto che arrivo la sera distrutto, non ci penso perché sto bene così. Io ho vicino Luca e mi basta. Che sia come amico e che non sia il mio ragazzo, non me ne importa veramente niente. E anche lui è felice quando sta con me, parliamo tantissimo. Mi ha anche raccontato di una storia con una ragazza di 2 anni fa, ma ha voluto aggiungere che non era una cosa che sentiva veramente. Io non gli dico mai nulla di troppo impegnativo, gli dico che sono contento di poter parlare con lui e che siamo amici. Una sola volta gli ho accennato che nella casetta ci si potrebbe stare anche in due e mi ha detto che piacerebbe anche a lui e mi ha fatto un sorriso bellissimo. Project, adesso mi sento felice, ma proprio nel senso profondo del termine. Lavoro fino a scoppiare, ma ho cominciato a fare la mia vita. E indubbiamente l'idea della vita in due, della vita seria in due, sarebbe proprio il massimo della felicità, ma deve essere con Luca. Se con lui non sarà possibile, resto solo. Project, lo sai che mi ha fatto piacere scriverti? Questo è il mio contatto Messenger, aggiungimi, così possiamo parlare un po'. In fondo mi manca parlare seriamente con persone della tua età e penso che mi potresti capire. E poi, te l'ho detto, mi piacerebbe tanto che tu vedessi questa mia casetta. Magari avervi a cena insieme, tu e Luca. Noi siamo troppo impegnati, siamo impegnati fino a mezzanotte. Mi sa che ci dovremmo accontentare, forse di fare la colazione in 3 una mattina. Tu che dici? Si potrebbe fare? Ti mando pure una foto mia e di Luca. Quella, ti prego, non la pubblicare. Un abbraccio. Tuo Alberto. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.